Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quell'inverno la mancanza di neve prese alla sprovvista tutti. Nel periodo natalizio il campo da golf sarebbe rimasto aperto, solo che segretario e direttore avevano già prenotato le ferie, per cui il presidente in persona decise che bastavo io, allora quindicenne, a tenere aperta tutta la struttura. Sono Emanuele Dutto, dalla provincia di Cuneo, 35 anni e sono ingegnere. Lavoravo da Blockbuster, facevo il semplice commesso. Una notte, durante l'inventario delle videocassette, un lavoro assurdo, il mio capo svenne e solo per quella sera il responsabile al telefono mi promosse store manager, ma durò solo quella notte. Matteo. Ero appena entrato al reparto di chirurgia dell'ospedale di provincia in cui avevo vinto il concorso. Il primario era in ferie. Alle 8 di una sera qualsiasi arrivò un caso di emergenza altissima. Tutti mi guardarono e io feci finta di essere pronto. E lo ero. Non venni promosso, ma dentro di me quella fu più che una promozione. Ettore. Lavoravo per una tipica media azienda a gestione familiare italiana. Cercavo di fare al meglio il mio lavoro. E quando il capo, padre dei due figli a fianco a cui lavoravo, si ammalò e dovette abbandonare l'azienda, decise di lasciarla in gestione a me e non a loro. Fu una promozione, ma al contempo anche una lettera di dimissioni, visto che di lì a poco, considerato il clima, me ne andai. Sandro. Buongiorno a tutti, oggi è il 27 di dicembre del 2012, mancano 4 giorni alla fine di quest'anno, che sia stato buono oppure no, l'anno finisce. E fatevene una ragione, questo programma si chiama Voi siete qui, la radio è Radio 24, io sono Matteo Caccia. In questo programma noi quotidianamente raccontiamo una storia che abbia a che fare con la vostra vita, ma più che avere a che fare con la vostra vita è una storia che racconta una parte della vostra vita e in qualche modo la rappresenta. Se non avete mai sentito questo programma, perché abitualmente a quest'ora lavorate e quindi avete di meglio o semplicemente avete altro da fare, e cogliete questa occasione. State qui fino alle 16.45, ascoltatevi la storia di Emanuele, che è una storia particolare, che parla di un periodo natalizio, ma parla soprattutto di promozioni che arrivano perché qualcuno è assente, e magari quando tornate a casa fateci un pensierino, buttate giù una pagina, un episodio che racconti qualcosa di voi e me la mandate. Voi siete qui, @radio24.it. Serena scrive sul profilo Facebook del programma: sono stata promossa mamma da mio nipote durante l'assenza di 2 ore di mia sorella, causa lavoro. Sarà stata felice tua sorella che torna a casa e improvvisamente si sente spodestata del ruolo di madre. Emanuela. Lavoravo come account in un'agenzia di pubblicità. Sì, Matteo, esiste ancora la pubblicità. Emanuela, vedo che mi conosce bene. Dico, più che conoscermi bene, dico sempre le solite 3 robe in croce, quindi... Ma esiste davvero ancora la pubblicità? Io continuo a stupirmi di questa roba. Comunque, lei lavorava come account. L'account è quello che gestisce i rapporti col cliente, più o meno. Durante l'assenza per lavoro dei due creativi, mi trovavo in una riunione importante per una strategia. Wow, sembra una roba di guerra, napoleonico. Diedi un suggerimento che ebbe un successo enorme e il direttore creativo mi promosse in 2 giorni. Questa è una roba tipo Mad Men. Ve la ricordate? Come si chiama lei? Il personaggio... Ustia, mi venisse un nome... Peggy Olsen. Peggy Olsen, che è la segretaria di Don Draper. Se non l'ha visto, non avete visto Mad Men, guardatelo. In Italia è difficile perché mi sa che non esistono neanche i DVD. Forse esistono i DVD della prima serie. Se no... Tiziano Bonini suggerisce piratestreaming.com o punto qualcosa. Ve lo vedete direttamente in streaming, ci avete giorni liberi in questo periodo. Sono 6 serie, è una serie strepitosa. Insomma, Peggy Olsen fa la segretaria di questa agenzia di pubblicità e viene promossa copywriter da Don Draper. Che personaggio assurdo Don Draper. 349-238-6666 arriva il messaggio di Giulio che dice: durante una riunione del partito... Ma che meraviglia! Durante una riunione del partito sono stato promosso a segretario di sezione del mio paese causa assenza di idee dell'allora segretario. Queste sembrano messaggi che arrivano dal 1960, invece è il 2012, anche se sta per finire. Questa storia è la storia di Emanuele e parla di promozioni. Nell'estate del 1992 avevano aperto un campo da golf non lontano da casa mia. ed io, a 15 anni, ero uno dei 25 ragazzi che passarono l'estate a lavorare come caddy. Venne l'inizio della scuola e di quei 25 rimasi solo io a lavorare tutti i sabati e tutte le domeniche. Con dicembre avvenne uno scatto di carriera improvviso. Il direttore se ne andò. Così il segretario diventò direttore. Il caddy master passò a segretario ed io fui promosso a caddy master, cioè coordinatore di tutti i caddy. Capo di me stesso, insomma. Un caddy nasce come quel ragazzo che porta le sacche con i ferri da golf al giocatore e dovrebbe anche consigliargli il ferro giusto, il momento giusto, direzione del vento, queste traiettorie della palla. Quell'inverno la mancanza di neve prese tutti alla sprovvista. Nel periodo natalizio il campo sarebbe rimasto aperto. Solo che segretario e direttore avevano già prenotato le ferie, per cui il presidente in persona decise che bastavo io, con la sua supervisione ovviamente, a tenere aperta tutta la struttura. Il 25 mattina aprì uffici, spogliatoi e deposito sacche, convinto che non avrei visto nessuno per tutta la giornata. E invece mi sbagliavo. Prima delle 9, infatti, arrivò il professore universitario con moglie in Danimarca, figlia economista in Inghilterra e figlio ricercatore in Canada. E per non far torto ad alcun familiare, lui aveva deciso di starsene solo in Italia e ne approfittò per giocare a golf. Per la verità, nel resto della giornata furono pochi altri i presenti. In compenso, nei giorni successivi facemmo il pienone, con record di incassi e di presenze. Gli accordi erano che il 1 di gennaio avrei aperto alle 12 del mattino. Così passai tutta la notte di Capodanno con i soliti tre amici del paese a tirare un immenso arsenale di petardi acquistato coi soldi delle mance. Alle 6 della mattina andai a dormire, per essere svegliato da mia madre pochi minuti dopo le 7. Mi chiamavano dal golf perché l'albergo era senza riscaldamento e senza acqua calda. E cosa diavolo ci potevo fare io? Eppure presi il mio fantastico Fantic Trial e alla massima velocità di 40 km all'ora mi precipitai non avendo la più pallida idea di che cosa avrei potuto fare. Arrivato vidi decine di persone avvolte nei loro cappotti che sognavano solo una doccia e un letto caldo e la loro espressione, come il loro morale, non fece che peggiorare vedendo che le loro ultime speranze erano riposte in un ragazzino di 15 anni. La centrale termica mi incuteva sempre parecchio timore. Uno stanzone con tre enormi scatole di ferro, con il fuoco all'interno, tubi così grandi che non avevo nemmeno immaginato potessero esistere, correvano in tutte le direzioni, ma erano soprattutto i rumori sinistri, quelli che provenivano da quel tetro locale, a non piacermi. Quella mattina, invece, il silenzio assoluto era forse ancora più inquietante. Iniziai a manovrare a caso manopole, spegnere e riaccendere tutti gli interruttori che trovavo. Tutto invano. Quel negozio si chiama Clubhouse, è la struttura in cui ci sono gli uffici amministrativi, c'è gli spogliatoi per i giocatori, deposito sacche, poi ci sono una serie di alloggetti residence, un bar, ristorante, delle buvette, centro benessere, più camere d'hotel. A intervalli quasi regolari si affacciava alla porta un avvocato con una nuova teoria sempre più fantasiosa sull'origine del guasto, dimostrando che lì dentro ne capiva meno di me. Quando ormai stavo per gettare la spugna, attirò la mia attenzione un quadrante tipo orologio, con la lancetta sullo zero. Era il tubo giallo del gas, perciò se lo strumento segnava zero, probabilmente mancava il gas. Andai dal contatore, aprii lo sportello e il rubinetto era chiuso. Lo girai lentamente, quasi incredulo che fosse solo quello il problema. Evidentemente, nella notte di Capodanno, qualcuno aveva pensato fosse uno scherzo divertente chiudere il gas a un albergo con decine di ospiti. Tornai di corsa nella centrale termica, dove tutto era tornato a funzionare correttamente. E la soddisfazione per la risoluzione del problema che ho provato in quel momento la ricordo chiaramente. Non credo di averla più rivissuta, professionalmente parlando, in tutta la mia carriera di ingegnere. Protection override. I'm gonna make you miserable. Oh, tweet, tweet, dee. Tweet, tweet, dee. Tweet, tweet, dee. Tweet, tweet, dee. Tweet, tweet, dee. Tweet, tweet, dee. Tweet, tweet, dee. Tweet, tweet, dee. È successo così. Dunque, lavoravo in una piccola radio della mia città. O meglio, non lavoravo esattamente, facevo un personaggio. Un personaggio che avrebbe dovuto essere comico e invece era tragicamente imbarazzante. Faceva così poco ridere che quando lo sentì mia mamma mi disse: «Matteo, sei proprio sicuro?» Insomma, credevo di poter far ridere alla radio, ma l'esperimento si stava rivelando davvero fallimentare, anche se io facevo finta di non accorgermi. Un giorno passavo di là dalla radio e il responsabile di un programma che sarebbe andato in onda la notte ricevette la telefonata dal suo socio che era a casa malato, non ricordo, o aveva qualche impegno che gli impediva comunque di muoversi da casa quella sera e andare in radio. Sto tizio, dopo aver riagganciato, alzò la testa, mi vide e mi disse: «Hai impegni per stasera?» Dopo poche ore ero in studio con lui a condurre un programma in cui tre inviati si aggiravano per la città e recensivano le toilette dei pub. Non ero mai stato al microfono e non mi sentivo per nulla pronto. Quello che accadde però fu che capii che far ridere non era roba mia e grazie a quel tizio malato che mi diede la possibilità di fare la mia prima diretta mi venne voglia di continuare a provare a fare quella cosa lì. Succede molto spesso che le opportunità nella vita capitino per caso e spesso capitano perché qualcuno che dovrebbe fare una cosa semplicemente non c'è. Non è lì nel momento in cui dovrebbe esserci e al suo posto, banalmente, c'è qualcun altro che magari non lo sa fare, magari ci prova e magari ci riesce pure meglio. Non è facile ammettere quanto la fortuna sia arbitro nella vita di tutti noi. Cioè, immaginare che uno studia, si prepara, lavora tutti i giorni sperando di raggiungere un obiettivo che si è prefigurato e poi scoprire che la fortuna gioca una parte sostanziale nella partita che ci giochiamo tutti i giorni è frustrante, no? È disarmante. Ecco perché quando guardiamo indietro dopo aver ottenuto qualcosa di bello o importante noi diamo poco credito agli eventi fortunati e ne diamo molto di più a quelli che ci siamo creati, che abbiamo perseguito. Emanuele adesso fa un altro mestiere e non gestisce il golf club in cui ha lavorato durante quelle feste natalizie, però in pochi giorni ha compiuto una crescita professionale per cui avrebbe probabilmente dovuto attendere anni. È bastato che due persone che stavano più in alto di lui fossero banalmente in vacanza per assumersi delle responsabilità inaspettate e per imparare nozioni che probabilmente lo studio non gli avrebbe trasmesso e forse nemmeno un affiancamento professionale sarebbe bastato. E quindi mi piace pensare che è proprio in questi giorni qui, in giorni come questi di vacanza statica tra una festa e un'altra, che a molti di noi capita la possibilità di sostituire qualcuno e di poter dimostrare quanto si vale. Spesso le occasioni più importanti sono casuali e non sai quando arrivano. Tutto sta nel saperle riconoscere. C'è un passo di Amleto che sembra spuntato da un film appena uscito, di quelli che nei trailer si infilano frasi a effetto per renderle interessanti. È una frase che parla di quanto sia importante stare in allerta. Dice così: «Se è ora, non sarà domani. Se non sarà domani, sarà ora. E se non sarà ora, tuttavia sarà. Essere pronti è tutto». Anche oggi 27 di dicembre, che non si sa che giorno è, perché si sa che giorno è il 24, che giorno è il 25, il 26 Santo Stefano, il 27, che santo è il 27? Vabbè, dopo guardiamo. Giada mi scrive a proposito di promozioni capitate perché qualcuno era assente: sono stata promossa a capitano della mia squadra di pallavolo perché l'ex capitano, cioè il capitano precedente, aveva abbandonato la società per un'altra e tra parentesi si sente tutto l'orgoglio, a fine campionato siamo arrivati davanti a loro. Tutto perché Emanuele, quando aveva 15 anni, quindi un bel po' di anni fa, è stato promosso da Caddy a Caddy Master e poi a capo del golf club, mi pare. Pronto Emanuele? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Sì, bene, bene. Senti, a parte che non è Caddy, è Caddy, giusto? Caddy. che abbiamo detto è il ragazzo, ma non è un ragazzo per forza, è un uomo, è un mestiere il caddy vero e proprio, giusto? Ma adesso sì, adesso ci sono solo più caddy professionisti che accompagnano i giocatori professionisti appunto nelle tornei internazionali, ma storicamente nasce come il ragazzino che porta le sacche da golf ai giocatori, ai signorotti. Perché, per cui passa da una sorta di sherpa a una sorta di tattico allenatore o qualcosa del genere? Sì, adesso c'è. Sono anche psicologi dello sport, preparatori mentali. Ok, ok. Semplicemente, cioè, quello di portare le mazze diventa una scusa per stare vicino e lavorare insieme al giocatore di golf, esatto, giusto? Sì. Senti, quel golf club lì c'è ancora? A quanti anni di distanza? Sì, 20 anni dopo ha avuto varie vicissitudini, ha cambiato varie volte nome e varie volte gestioni, però sì, esiste ancora. Ora è parecchi anni che non ci vado più, però esiste. Tu, tra l'altro, scusami, ma ne parlavamo prima con Tiziano mentre riguardavamo la tua storia, c'era già in nuce un ingegnere dentro di te, no? Perché è vero che tu dici mi spaventava quella sala enorme con le macchine, a 15 anni lo posso capire, però... Tu quando hai visto che la lancetta del gas era giù hai pensato probabilmente manca il gas. Io l'avessi vista non mi sarei nemmeno accorto che la lancetta era giù, no? Per far capire la differenza tra uno che poi fa materie umanistiche e uno che fa materie scientifiche. Forse no, un po' di imprinting me l'ha lasciata. Tu che ingegnere sei adesso, Emanuele? Io sono ingegnere energetico, faccio appunto impianti termici, impianti energie rinnovabili. Vabbè, ma quindi eravamo lì più o meno, cioè si parlava di riscaldamento comunque. Sì, infatti adesso progetto quella roba lì. Che, scusa, energie rinnovabili, quindi paleoliche? Ma no, paleoliche no, non l'ho mai fatto, fotovoltaico, centrali a biomassa. Cos'è la centrale a biomassa? Centrali che bruciano legna, pellet o scarti di lavorazione. Cioè, sono equiparate energie rinnovabili, anche se... Cioè, ma nel senso, scusami, centrali che bruciano, fanno un falò, sono considerate, detto male, un falò, sono considerate energie rinnovabili? Sì, no, quando si bruciano scarti di lavorazione. Ah, ok, perché sono scarti che altrimenti andrebbero semplicemente buttati via. Sì, tutto è la biomassa, non sono scarti, c'è un impianto in Val d'Aosta che brucia, cioè che produce biogas partendo dagli scarti della produzione della birra. Ah sì? E che scarti sono quelli della produzione della birra, scusami? Malto? Il malto, sì, esatto, questi scarti dalla fermentazione vengono ulteriormente fatti fermentare, viene prodotto il biogas, da quel biogas si ricava il calore. E alla fine si scaldano anche i golf club, probabilmente. Se ci fosse Maurizio Melis qui mi farebbe veramente la pelle. Senti, tu tra l'altro, Emanuele, noi abbiamo realizzato prima che questa è la tua seconda partecipazione, voi siete qui e il tuo racconto era quello straordinario racconto in cui ripercorrevi con tuo padre e tuo zio le quattro valli, che tuo nonno doveva avere percorso, giusto? Sì, doveva percorso, esatto. E invece alla fine ne facciaste cinque invece che quattro. Sì, quella storia lì. Senti, tu, scusami Emanuele, però sei veramente, apprezzo questo tuo modo di rispondere a spizzichi e bocconi, che è veramente piemontese, giusto per non fare del regionalismo spiccio e non dire banalità. Mia moglie mi ha sempre rimproverato che al telefono sembra arrabbiato. No, guarda, non sembri per niente arrabbiato, però se mi avessero detto, secondo te quel ragazzo lì è toscano, friulano o piemontese? Sarei stato probabilmente incerto sul friulano o il piemontese, ma quando hai detto solo più ho capito che eri piemontese, perché il solo più è un'espressione tipicamente piemontese. Senti, a 3 giorni dal Capodanno, 27, 28, 29, 30, 31, a 4 giorni dal Capodanno, sai già cosa farai, cosa non farai? Starò a casa con i bambini perché mia moglie è di turno in ospedale, quindi... Tua moglie cos'è? Infermiera, medico? Infermiera. In quale reparto? In sala parto? Ma quindi, sì. Cioè, siete gente che durante le feste natalizie, sin da quando hai 15 anni, siete abituati a lavorare durante i giorni di festa? Infatti è stata... Sì, infatti il Capodanno in cui non ho... Anche il mio primo lavoro, per il gruppo Pirelli, ho lavorato il giorno di Capodanno perché... un impianto che non doveva mai star fermo. Quindi... Senti Emanuele, poi ti saluto, tu ce l'hai un fotovoltaico a casa? Non ancora. Come non ancora? Ma ne ho fatti una cinquantina in giro tra amici e parenti, ma Ma perché è il tetto in comune con mia sorella e, okay. e lei non vuole. Senti, ma comunque ma conviene giusto sto fotovoltaico in definitiva? Ma se hai dei soldi da mettere ti conviene. Va bene, Emanuele, ti auguro un buon anno nuovo quando arriverà tra 4 giorni e grazie ancora per la storia. Altrettanto a te. Ciao Emanuele, grazie, a presto. Ciao. Questo programma è fatto di storie, ma è fatto anche di fotografie. E le storie e le fotografie riguardano tutte, nella giornata, nella puntata del giorno, la stessa persona. Quindi la foto che sto per raccontarvi è quella di Emanuele, che è il protagonista della storia di prima, del golf, 15 anni, il riscaldamento e la promozione che arriva perché qualcuno è assente. Emanuele nella foto che ci ha mandato però non ha 15 anni, credo ne abbia 34-35, sarà stata scattata grosso modo quest'anno. Sta correndo, è proprio in tenuta da corsa ed è pubblica la cosa perché ci sono delle transenne, c'è una strada, c'è un sacco di gente dietro le transenne. Lui ha il tipico abbigliamento, lui ha soprattutto direi il tipico fisico da maratoneta, asciutto, una canottierina bianca con delle righe rosse e blu e delle scarpe proprio da corsa prolungata, e si trova in un posto che potrebbe essere la Liguria. Oh, perché ci sono quei palazzoni, sapete quei palazzoni onestamente brutti che ci sono in Liguria e dietro le spa? Ah, certo, non l'avevo letto, in testa, ecco, in testa alla fotografia c'è scritto "Arrivo a Monte Carlo". Golf. Sostantivo maschile invariabile. Gioco di origine scozzese praticato su campi di vaste dimensioni, ognuno con caratteristiche proprie e particolari difficoltà. Consiste nell'inviare una pallina dura di gomma, colpendola con bastoni di vario tipo, dalla piazzola di partenza nella buca delle piazzole, dislocate lungo un percorso più o meno accidentato. Mi sono già perso. Allora, dalla piazzola di partenza nella buca delle piazzole dislocate lungo un percorso più o meno accidentato sino a quella d'arrivo, col minor numero di colpi possibile. Etimo dall'inglese golf, dall'olandese golf, bastone. Data 1825. Alessandra De Luca, siamo tutti con te. Ringraziamo ancora una volta la nostra speaker, senza la quale questo programma non sarebbe il programma che è. Io ringrazio però soprattutto Antonio, che mi scrive che il 27 di dicembre è San Giovanni, apostolo ed evangelista, e soprattutto mica tanto, e Santa Fabiola di Roma, matrona romana. Perché da quando in qua le matrone venivano fatte sante? Insomma, però almeno sappiamo che ieri era Santo Stefano, oggi è San Giovanni o Santa Fabiola. 349-238-6666, tant'è, direbbe qualcuno al mio posto. Torniamo invece alle promozioni che sono arrivate. Siete stati promossi in questi giorni di ferie, proprio per quel motivo lì, perché qualcuno è in ferie e vi hanno detto "Ah, ci sei tu, dai, passa tu", 349-238-6666. Pietro scrive: "Promosso in terza liceo per l'assenza in scrutinio del professore di italiano e latino. Sono sicuro mi avrebbe dato 2 materie a settembre". Pietro, questa la vedo abbastanza dura, anche perché un professore assente agli scrutini tu non vieni rimandato. Ma chi se ne frega, andiamo avanti a raccontare storie. Oggi se si parla di storie accadute più o meno in questo periodo, storie in cui si doveva fare altro, ma tutto quanto accadeva esattamente in questi giorni. L'avevamo chiesto tempo fa, è arrivata la storia di Federico, che si intitola "Laurearsi a Natale". Oggi per me non è un qualunque 21 di dicembre. Io oggi mi laureo. Esco di casa, mi accorgo che ha cominciato a nevicare. Meno male che ho deciso di andare in metro, per evitare lo stress e il panico che due fiocchi in croce causano nel 90% degli automobilisti mattutini. Senza contare la frenesia da shopping tipica del periodo. Cara vecchia metro, con te vado sul sicuro. Passo a prendere la mia ragazza, Alice. Saliamo sulla metro in perfetto orario, sono le 9 e 10 del mattino. La mia sessione inizia tra più di un'ora. Il viaggio è di circa 25-30 minuti, quindi ho un intervallo di tempo rassicurante, ma alla terza fermata, panico. La cara vecchia metro si ferma. Dopo 5 minuti di silenzio, veniamo informati di un guasto sulla linea che dovrebbe essere risolto a momenti. Siamo però fermi in una stazione di snodo e nel binario accanto al mio vedo 1, 2, 3 treni che arrivano, caricano, scaricano i passeggeri e ripartono senza problemi nella stessa direzione in cui dovrei andare io. Quando sto per farmi prendere dal panico, arriva un quarto convoglio e non me lo lascio scappare. Afferro Alice per la mano, balziamo da un treno all'altro, convinti di aver agito correttamente. Ovviamente, appena saliti sul nuovo vagone, vedo il treno precedente che chiude le porte e riparte. Il mio resta fermo. Non ci credo, non posso crederci. Neanche in un film ci sarebbe stato un tempismo così perfetto. Rabbia, delusione, preoccupazione, sconforto, visioni funeste. Mentre mi perdo nel pensiero del diploma di laurea che vola via, Alice mi dice di stare tranquillo, che c'è ancora tutto il tempo. Ha ragione, ma mi torna la rabbia. Sto per premere il pulsante delle comunicazioni e minacciare il macchinista delle peggiori sevizie e torture quando finalmente ripartiamo. Avviso dell'accaduto Mattia, il mio più caro compagno di corso, triennale insieme e da un paio di mesi anche specialistica. Per un bel regalo del destino, anche lui si laurea stamattina nella stessa aula, un paio di discussioni dopo la mia. È già lì e, come ogni buon amico, sentendo la mia disavventura, non perde l'occasione e mi prende in giro. Quando sto per buttargli il telefono in faccia, mi dice di stare tranquillo, che là le cose stanno andando a rilento. Ho i nervi a fior di pelle quando finalmente scendo dalla metropolitana e riemergo in superficie, dove ovviamente non ha smesso di nevicare. Percorriamo di corsa i 300 metri che ci separano dall'università e entro nella sala lauree mentre la ragazza di turno prima di me ha appena iniziato a discutere. Il mio sguardo incrocia quello del prof, che è un misto di rimprovero e di sollievo. I miei genitori, che hanno preso la macchina, sono già arrivati da 20 minuti, in barba al traffico impazzito causa neve e shopping. Mi siedo e attendo il mio turno. Ora che sono lì, certo di non mancare alla mia stessa laurea, sono contento di essere arrivato all'ultimo momento. Aspettare, fermo in università per ore, mi avrebbe innervosito molto più di qualsiasi treno guasto. Ecco, tocca a me. Mi alzo, mi presento e inizio la discussione della tesi. Ho fatto bene a non preparare nulla. Riesco a toccare tutti i punti che mi ero prefissato e ci scappano anche un paio di battute col prof, che alla fine, invece di darmi la mano, mi batte il 5. Dopo mezz'ora anche Mattia è laureato e cominciano i festeggiamenti. La triennale finalmente è alle spalle e in questo nervoso martedì natalizio tutto è andato liscio. Anzi, mi è piaciuto così tanto laurearmi a Natale che ho deciso di fare il bis. E così, quest'anno, anche la magistrale sarà alle spalle in un'altra giornata qualunque di dicembre. È Giordano, l'ultimo messaggio di oggi mi dice: sono stato promosso a capo cuoco dal mio chef perché il tenutario di quella posizione aveva lanciato una padella contro la vetrata della cucina che dava sul ristorante. Tra parentesi, le cucine dei ristoranti sono luoghi di follia. E questa voce mi ha raggiunta. È finita anche oggi 27 dicembre. Io ringrazio Margherita Ina, ringrazio Tiziano Bonini e soprattutto Peter Bescapè per la prima volta dall'altra parte del mixer. Grazie ad Emanuele, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Siamo in aria, la storia di domani è la mia e parla di valanghe di neve. Questa è la mia storia e io sono qui.